Mi devi lanciare da Skopje in collaborazione con Laboratorium. Ok. Radio Antidoto stasera dalle 20:30. Non è vero, non è vero. Questo è lo zio Fred. Non da Skopje, ma da Skopje, ma Spoleto. Entra all'interno dell'azione. E questo è un'incursione delle incursioni, in cui farò sentire un po' di musichette. Dico di musichette. Quindi siete pronti alle musichette? Siete pronti alle musichette? Eccole qua. like her eggs all runny. She thinks the crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She makes a face when my jokes are punny. She's my baby, I'm her honey. Never gonna let her go. Oh, he can't dance, but he still gets funky. He's a whacked out weirdo and love bug junkie. Clears out a room when he's broken out of tune. Eats soup with a fork and spaghetti with a spoon. He takes a licking, keeps on ticking. Never gonna let him go. In spite of ourselves, we'll end up sitting on a rainbow. Against all odds, honey, we're the Victor Prize. We're gonna spite our noses right hey, off of our face. Look, you see what I'm seeing? See, see. Sparks are flying with the old pig, yep. And the new pig is not having it. Nope. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. Famiglia. Noi non abbiamo più nessun amore, né una casa da difendere dai mali del mondo. Questi sono i giganti, noi non abbiamo paura della bomba. Passando. Noi vogliamo che venga presto questo giorno che ci porterà paura per noi. Amici cari, avete paura della bomba? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, atomica. E questo passaggio un po' di merda che ho fatto largo tuttora passato a questo mai. Punto adesso non si può. È per un pezzo che non mi ricordo oggi non come fa. Perché so per ve lo dedico. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali. E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi, con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa. Zio Fred che vi manda un po' di buone vibrazioni mentre fa la radio, così per tenersi sveglio, per tenersi aperto, aperto a un po' di cose buone e un po' di cose meno buone che gli passano per la testa e tra le dita. Mentre scrive, ecco, Fred scrive, scribacchia e si intrattiene con voi con un po' di musica. Buon ascolto, ci risentiamo dopo. Buon divertimento. aperta per noi, per le persone del paese, la mattina presto, con dei compagni di viaggio, vibrando. Splendida. Sono quel fiume, un tigre che mi divora, ma io sono quella tigre, è un fuoco che mi consuma, ma io sono quel fuoco, il mondo disgraziatamente reale, e io disgraziatamente sono Federico. Scopie in collaborazione con Laboratorium. Radio Antidoto stasera dalle 20:30 con la jam session aperta di Reset Network. Ok, proviamo. Scoppia Macedonia del Nord, Radio Antidoto entra all'interno dell'azione. Mi devi lanciare da Scopie. Christina on the radio for 10 minutes, but then she went back to packing. Thank you, Christina. Thank you, Christina. Thank you, Christina. Gesättigt gleich der Flamme glühe und verzehre ich mich. Licht wird alles, was ich fasse. Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Invítame a bailar contigo en La Habana entera. Danke, Norbert. Danke, Norbert. Very gentle, Norbert. Good, good day. Junk. Junk is good? No. Junk is good? Junk is no very good. Junk is good, baby? No. Junk. Baby good? No. Baby is no good. Baby is good. Baby is junk? No good. Baby is no junk good. Baby is good. Junk. Baby is junk good? No. No good baby. Junk. No baby junk good. No junk baby good. No strade difficili. No baby. Squallide preperiferie. Ti offro l'amarezza di un uomo che ha guardato a lungo la triste luna. Ti offro i miei antenati, i miei morti, i fantasmi a cui i viventi hanno reso onore con il marmo. Il padre di mio padre ucciso sulla frontiera di Buenos Aires. Due pallottole attraverso i suoi polmoni. Barbuto e morto, avvolto dai soldati nella pelle di una mucca. Il nonno di mia madre, appena 24enne, è capo di un cambio di 300 uomini in Perù, ora fantasmi su cavalli svaniti. Ti offro qualsiasi intuizione sia nei miei libri, qualsiasi virilità o vita umana. Ti offro la lealtà di un uomo che non è mai stato leale. Ti offro quel nocciolo di me stesso che ho conservato in qualche modo. Il centro del cuore che non tratta con le parole né coi sogni e non è toccato dal tempo, dalla gioia, dalle avversità. Ti offro il ricordo di una rosa gialla al tramonto, anni prima che tu nascessi. Ti offro spiegazioni di te stessa, teorie su di te autentiche, sorprendenti notizie di te. Ti posso dare la mia tristezza, la mia oscurità, la fame del mio cuore. Cerco di corromperti con l'incertezza, il pericolo, la sconfitta. passato recentemente dietro le montagne che chiudono questa valle di papaveri. Sì. Ergono sopra l'erba e hanno oramai aperto le loro chiome e corolle, buchi rossi nel verde, olivi, olivi, olivi, olivi, olivi, montagne, olivi, olivi, olivi. Non male, scricchiolini seggiole impagliate, tavolino, togliti la maschera, togliti la maschera. We'll be right back. basta chi è sempre preso. La mano destra la metto nel naso. Scavo, scavo, scavo, scavo, scavo, scavo, scavo, scavo, scavo. We stood on the threshold. Ooh, we stood on the threshold of paradise. In my arms, golden flames started to rise. I felt the beating of my heart as we stood on the threshold. We stood. Quest'ora con lo zio Fred, Pasqua 2025, programma con l'aiuto dei presenti dalla mamma Umbria. Forse qualcuno vorrà fare ancora radio oggi, Pasqua di Resurrezione, ma vi lascio l'onda, così potete portare anche voi. Un ringraziamento a tutti i partecipanti della situazione qua, un ringraziamento particolare a Chiara che forse ascolta, la mamma che è nella sua stanza intanto esce, a tutti quelli in ascolto. Radio Antidoto non solo non muore ma risorge ogni giorno più nuova e più bella che prima. Un benvenuto a Violetta che vuole trasmettere. Chi vuole trasmettere sa che può sempre far conto su di noi, sulla grande squadra di Radio Antidoto, sempre pronti su backstage, in ascoltatori, su Telegram. Trasmettete la vostra radio, forza che aspettate. E organizzeremo anche qualche scambio di casa per Cristina che ha troppo mare in testa. Per il diavolo che accoglie la simpatia dei secchi, dei magri e delle pietre che rotolano. Un saluto a Nina e Cristina che stanno qui, che si stanno preparando ai prossimi passi nelle loro stanze. Un saluto ad Arianna che non mi ascolta mai. Un abbraccio molto molto molto molto fino e leggero ad Adriana, la grande Adriana. Un saluto a Cecilia, a Sergio, a Giovanni. Una bella esperienza questa qui. Un abbraccio anche a Jules. Fondo è sempre una questione di gusto, di avere buon gusto, di coltivare il proprio buon gusto. E quindi buon cibo, belle persone, bei posti, la fame, la sete, il succo di mela. Stai ascoltando Radio Antidoto, sono 20.05 e questa trasmissione sta già sforando di 2 minuti. Quando sentirai le onde ti sarai tuffato nel mare dello stretto di Messina, beh, ciò vuol dire che il posto è tuo, prendi l'onda, fai la radio, ti ascolteremo. Puoi fare quel che vuoi, quel che sei, anzi sii quel che vuoi. Buona serata, ciao! Baby, I want to tell my sweetie, hey, gonna come on in? Why'd you tell me, baby? What's that?